Benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un tema veramente affascinante, l'intelligenza artificiale nella scuola. A farci da guida in questo viaggio intellettuale sarà Marco Guastavigna, un educatore italiano che non ha peli sulla lingua quando si tratta di analizzare il ruolo della tecnologia nell'apprendimento. La cosa interessante è che Guastavigna non si limita a criticare l'uso dell'IA nella scuola, ma propone un'analisi a tratti provocatoria del rapporto tra tecnologia e sapere. Abbiamo qui una pila di suoi articoli e saggi e vi dico non si risparmia. Guastavigna è molto critico nei confronti dell'attuale corsa all'integrazione dell'IA nell'istruzione, vedendola con una forza guidata più dalle esigenze del mercato che da reali bisogni pedagogici. Per esempio, in uno dei suoi saggi afferma che la scuola rischia di diventare un mercato dove si comprano e si vendono dati invece che coltivare la conoscenza. Già, è un'osservazione che fa riflettere. Guastavigna non si ferma qui, però. Per spiegare le sue preoccupazioni, ha sviluppato alcuni concetti davvero intriganti, come quello del tecnofeudalesimo. Tecnofeudalesimo. Accidenti, suona minaccioso. Di cosa si tratta? Immaginate le vecchie città minerarie, dove la vita di ogni abitante era controllata dalla compagnia che gestiva la miniera. Ecco, Guastavigna teme che le grandi aziende tecnologiche stiano diventando le nuove compagnie minerarie del sapere. In pratica sta dicendo che queste aziende usano l'IA per estrarre e mercificare la conoscenza, trasformandola in un prodotto da acquistare e vendere anziché in una risorsa condivisa per l'apprendimento e la crescita. Esattamente. Guastavigna sostiene che questo tecnofeudalesimo crea un sistema in cui il potere e il controllo sulla conoscenza si concentrano nelle mani di pochi, proprio come i signori feudali controllavano la terra e le risorse nel passato. E non si limita a questo. Guastavigna solleva anche l'allarme sull'impatto ambientale di tutta questa tecnologia, l'energia che consuma, le risorse che divora. E non dimentichiamo il potenziale sfruttamento dei lavoratori, soprattutto nel sud del mondo, spesso coinvolti negli aspetti meno nobili dello sviluppo dell'IA. Questa è una critica che a mio parere merita un'attenta riflessione. È giusto domandarsi se nella corsa all'innovazione tecnologica non stiamo trascurando questioni etiche e sociali di grande rilevanza. E questo ci porta ad un altro punto cruciale del pensiero di Guastavigna. Il suo scetticismo verso il termine generico digitale. Sembra che lo consideri una parola vuota, un'etichetta che maschera le differenze sostanziali tra le diverse tecnologie. Guastavigna propone una distinzione tra strumenti digitali estrattivi e conviviali. I primi sono quelli che estraggono dati e informazioni dagli utenti per fini commerciali, spesso senza un reale beneficio per l'apprendimento. I secondi, invece, sono progettati per promuovere la collaborazione, la condivisione della conoscenza e l'empowerment degli studenti. Quindi non è antitecnologia, ma sicuramente pro-tecnologia consapevole, una tecnologia che potenzia e libera e non solo automatizza e controlla. Ma quali sono in concreto gli strumenti che Guastavigna considera conviviali? Beh, sicuramente quelli open source che permettono agli utenti di accedere al codice sorgente e di modificarlo in base alle proprie esigenze. Guastavigna è un grande sostenitore del software libero, lo vede come un modo per sottrarre il controllo della tecnologia alle grandi aziende e restituirlo alle comunità d'utenti. E in ambito educativo, quali sarebbero gli esempi di strumenti conviviali? Pensiamo alle piattaforme di apprendimento collaborative come Moodle o Wikiversity, che permettono agli studenti di lavorare insieme, di condividere risorse e di costruire la conoscenza in modo collettivo. Oppure software come GeoGebra, che permette di esplorare la matematica in modo interattivo e creativo senza dover ricorrere a costosi software proprietari. Interessante, ma non dimentichiamo il ruolo del docente in questo nuovo scenario. Assolutamente no. Guastavigna ribadisce con forza l'importanza del ruolo del docente come mediatore critico tra tecnologia e studenti. Immagino che per Guastavigna l'insegnante debba sviluppare nuove competenze per affrontare le sfide dell'era digitale. Esattamente. Guastavigna delinea la figura di un docente che non si limita a trasmettere nozioni, ma che diventa un vero e proprio artigiano digitale, capace di selezionare con cura gli strumenti tecnologici più adatti, di integrarli nella propria didattica in modo creativo e di guidare gli studenti verso un uso consapevole e responsabile della tecnologia. Quindi non si tratta di sostituire il docente con la macchina, ma di potenziare il suo ruolo con l'aiuto della tecnologia. Esatto. Guastavigna ci invita a ripensare il ruolo del docente in un'ottica di empowerment digitale, dove la tecnologia diventa un alleato prezioso per la crescita personale e professionale degli insegnanti. Parliamo ora della critica di Guastavigna verso l'intelligenza artificiale. Lui stesso ha sperimentato diversi strumenti di IA, come i chatbot, tra cui ChatGPT, e ha scoperto che, per esempio, questo famoso chatbot non sapeva nulla di un oscuro pedagogista italiano. Ah, un esempio divertente che ci ricorda che anche sistemi di IA più avanzati hanno i loro limiti. Cosa ha dedotto Guastavigna da questa scoperta? Ha evidenziato i limiti di questi strumenti, soprattutto quando si tratta di conoscenza specialistica o di comprensione profonda di un argomento. Guastavigna vede i chatbot come potenziali assistenti, ma non come sostituti delle esperienze del giudizio umano. e non si è limitato ai chatbot. Guastavigna ha esplorato anche applicazioni di IA più specializzate, progettate per compiti come l'adattamento di testi, la pianificazione delle lezioni e la generazione di materiali di valutazione. Trova qualche qualità positiva in questi strumenti più mirati. Riconosce che potrebbero offrire alcuni vantaggi come l'automazione dei compiti ripetitivi e la possibilità per gli insegnanti di dedicare più tempo all'interazione con gli studenti. Ma c'è sempre un ma con Guastavigna? È pronto a sottolineare i potenziali rischi. Scommetto che teme che gli insegnanti diventino troppo dipendenti da questi strumenti, con conseguente dequalificazione della professione o restringimento degli approcci pedagogici. Ha indovinato. Teme che questi strumenti possano rafforzare le pratiche di test standardizzati o limitare l'apprendimento a ciò che può essere facilmente misurato e quantificato dall'IA. Quindi quello che emerge è un argomento sfumato. Guastavigna non sta semplicemente dicendo l'IA è cattiva o la tecnologia sta rovinando l'istruzione. Ci sta esortando a guardare più in profondità, a capire le forze in gioco, a considerare le potenziali conseguenze e ad essere molto intenzionali riguardo ai tipi di strumenti digitali che abbracciamo. In altre parole, prima di consegnare le chiavi del regno dell'istruzione a questi algoritmi, assicuriamoci di capire in cosa ci stiamo cacciando. Esattamente. Adesso proviamo a mettere in discussione alcune delle critiche di Guastavigna. Cosa ne pensi? Non ti sembra che a volte sia un po' troppo pessimista riguardo alle potenzialità dell'IA nella scuola? In effetti hai ragione. Guastavigna tende a concentrarsi sui rischi e sulle criticità, ma forse trascura alcuni dei benefici che l'IA potrebbe portare all'istruzione. Per esempio, i sistemi di tutoraggio basati sull'IA potrebbero fornire un supporto personalizzato agli studenti in difficoltà, offrendo loro un feedback e una guida su misura che potrebbero non essere possibili per un insegnante con una classe piena di studenti diversi. Pensiamo a piattaforme come Khan Academy o Duolingo, che adattano il percorso di apprendimento alle esigenze di ogni singolo studente. È vero, sono esempi concreti di come l'IA possa essere utilizzata per personalizzare l'apprendimento e renderlo più efficace. E poi, non dimentichiamo che l'IA può aiutare gli insegnanti a svolgere compiti ripetitivi e noiosi come la correzione dei compiti o la creazione di test, liberando tempo ed energie per attività più creative e stimolanti. Certo, ma il rischio è che l'insegnante si affidi troppo a questi strumenti, perdendo la sua autonomia professionale e la sua capacità di valutare criticamente il lavoro degli studenti. Quindi il punto è trovare un equilibrio, un modo per integrare l'IA nella scuola senza snaturare il ruolo del docente e senza compromettere la qualità dell'apprendimento. Esattamente. E questo ci porta ad un altro punto cruciale. La necessità di sviluppare una competenza IA sia negli studenti che negli insegnanti. Cosa intendi per competenza IA? Si tratta solo di saper usare i software? No, è molto di più. Si tratta di sviluppare una consapevolezza critica nei confronti dell'IA, di capire come funziona, quali sono i suoi limiti, quali sono le sue potenzialità e quali sono i suoi rischi. In altre parole, si tratta di educare gli studenti a un uso consapevole e responsabile dell'IA in modo che possano diventare cittadini digitali attivi e informati. Quindi la competenza IA non è solo una questione tecnica, ma anche etica e sociale. Esattamente. E questo ci porta a un altro punto critico, la questione dell'equità nell'accesso all'IA. Non tutti gli studenti hanno le stesse opportunità di accesso alle tecnologie digitali e questo rischia di creare nuove disuguaglianze. È un problema serio che va affrontato con urgenza. Come possiamo garantire che l'IA sia uno strumento di inclusione e non di esclusione? Bisogna investire in infrastrutture digitali, in formazione per gli insegnanti e in programmi di educazione digitale per gli studenti, in modo che tutti abbiano la possibilità di sviluppare le competenze necessarie per vivere e lavorare in un mondo sempre più digitalizzato. E non dimentichiamo l'importanza di promuovere un uso etico e responsabile di l'IA che rispetti i diritti umani e la dignità di ogni persona. Assolutamente. L'IA non deve essere uno strumento di controllo o di discriminazione, ma un mezzo per migliorare la vita delle persone e costruire un futuro più giusto e sostenibile. Bene, direi che abbiamo toccato molti punti importanti in questa prima parte della nostra analisi del pensiero di Guastavigna. Certo, ma il nostro viaggio non finisce qui. Nella prossima puntata approfondiremo altri aspetti cruciali della sua critica, come la sua visione di una tecnologia conviviale e il suo appello a un umanesimo digitale. Non vedo l'ora di continuare questa esplorazione. E voi, cari ascoltatori, cosa ne pensate finora? Quali sono le vostre riflessioni? Scriveteci i vostri commenti e condividete le vostre opinioni. E vediamo nella prossima puntata di The Deep Dive. Riprendiamo il nostro viaggio nel labirinto del pensiero di Guastavigna. Avevamo lasciato in sospeso il discorso sulle tecnologie conviviali. Ricordi? Quelle che Guastavigna contrappone alle tecnologie estrattive. Certo che mi ricordo. Le tecnologie conviviali sono quelle che, secondo Guastavigna, promuovono la collaborazione, l'accesso aperto alla conoscenza e la condivisione del sapere come bene comune. In pratica, informatica, all'opposto di quelle tecnologie che estraggono dati dagli utenti per fini commerciali, spesso senza un reale beneficio per l'apprendimento. Esattamente. Guastavigna fa un paragone molto efficace. È come la differenza tra una biblioteca pubblica e un'operazione di data mining mascherata da app gratuita. Una arricchisce la comunità, l'altra non proprio. E Guastavigna è un grande sostenitore del software open source, vero? Lo vede come un modo per liberarsi dalla morsa dei giganti della tecnologia e permettere agli educatori e alle comunità di controllare e personalizzare i propri strumenti digitali. In pratica è come avere il potere di smanettare sotto il cofano, di adattare il software alle proprie esigenze specifiche, invece di essere bloccati con le funzionalità che qualche azienda decide di elargire. Esatto. Guastavigna usa spesso la metafora dell'artigiano digitale per descrivere l'insegnante che utilizza il software libero. Un artigiano che non si limita a usare gli strumenti che trova sul mercato, ma che li modifica, li adatta e li crea in base alle proprie esigenze e a quelle dei suoi studenti. Fantastico. E a proposito di strumenti digitali, Guastavigna ha sperimentato anche Canvas Magic Write, uno strumento di intelligenza artificiale che genera testi. Non sapevo che Canva, la piattaforma di progettazione grafica, si fosse lanciata anche nel campo della scrittura AI. Ebbene sì. Guastavigna lo mette alla prova testando la sua capacità di adattare i testi per diversi tipi di pubblico e scopi. Ad esempio, gli fa riscrivere un brano della mitologia greca in uno stile più semplice per un pubblico più giovane e poi confronta i risultati con quelli prodotti da ChatGPT. Caspita, una sfida tra titani digitali. ChatGPT contro Canvas Magic Write. Chi ne esce vincitore? Beh, Guastavigna non la inquadra come una competizione, ma evidenzia alcune differenze interessanti nei loro approcci. ChatGPT tende a produrre testi più prolissi, mentre Canvas Magic Write si concentra sulla concisione e la chiarezza. Quindi non si tratta solo di quale strumento sia più intelligente, ma di come le loro diverse scelte progettuali e algoritmi influenzano il tipo di testo che producono. Guastavigna ci sta dicendo che dobbiamo guardare oltre la superficie e capire come funzionano questi strumenti a livello profondo per poterli usare in modo consapevole e critico. Esattamente. E questo ci porta a un altro concetto chiave introdotto da Guastavigna: l'episteme marketing. Episteme marketing sembra una parola complicata, di cosa si tratta? In sostanza, è l'idea che la conoscenza stessa venga commercializzata e mercificata. Guastavigna vede la tendenza a incorporare l'intelligenza artificiale nell'istruzione come alimentata più dalle forze del mercato che da reali esigenze pedagogiche. È come quelle pubblicità che promettono di sbloccare il potenziale del tuo bambino con l'ultimo gadget educativo. Ma si tratta davvero di sbloccare il potenziale o di sbloccare i profitti per qualche azienda tecnologica? Guastavigna non dice che tutta l'IA nell'istruzione sia negativa, ma ci esorta a essere molto critici, a guardare oltre l'hype del marketing e a porci domande difficili su chi trae beneficio da queste tecnologie e quali valori incarnano. Quindi è un invito al consumo critico delle tech, giusto? Non lasciarsi travolgere dalle ultime tendenze, ma valutare attentamente se questi strumenti sono in linea con i nostri obiettivi educativi e i nostri principi etici. Esattamente. E questo ci porta a un'altra critica importante mossa da Guastavigna: il costo ambientale dell'IA. Già, parliamo dell'elefante nella stanza dei server. Il consumo energetico e l'esaurimento delle risorse che accompagnano tutta questa magia digitale. Guastavigna è profondamente preoccupato per i costi ambientali di IA, in particolare per le enormi quantità di energia necessarie per addestrare e far funzionare questi sistemi complessi. È facile dimenticare che tutte queste cose digitali hanno un impatto fisico nel mondo reale, è vero. Quei data center consumano elettricità come se non ci fosse un domani. Esattamente. E Guastavigna sostiene che questo impatto ambientale viene spesso trascurato nella corsa ad abbracciare l'IA, soprattutto in un campo come l'istruzione, dove la sostenibilità e la responsabilità sociale dovrebbero essere fondamentali. Quindi non si tratta solo di verificare se la tecnologia funziona, ma se funziona in modo sostenibile per il pianeta, per le generazioni future. Esattamente. E questo si lega alla sua critica più ampia di quello che chiama tecnofeudalesimo, l'idea che queste potenti tecnologie stiano concentrando la ricchezza e il controllo nelle mani di pochi, mentre i costi vengono esternalizzati sulla società e sull'ambiente. È come quelle aziende che inquinano l'ambiente, poi si aspettano che i contribuenti paghino il conto per la bonifica. Esattamente. Guastavigna sostiene che dobbiamo iniziare a porci domande difficili sul vero costo di queste tecnologie, non solo in termini di denaro, ma anche in termini di impatto sul pianeta e sul benessere delle generazioni future. Quindi si tratta di andare oltre quella prospettiva ristretta e a breve termine e di adottare una visione più olistica e a lungo termine che tenga conto dell'interconnessione dei sistemi sociali, economici e ambientali. Esattamente. E questo richiede un cambiamento fondamentale nei nostri valori e nelle nostre priorità. Dobbiamo allontanarci da una cultura del consumismo e dell'usa e getta e orientarci verso un modello di sviluppo più sostenibile ed equo. Si tratta di riconoscere che non siamo solo consumatori di tecnologia, ma cittadini di un pianeta che condividiamo con miliardi di altre persone e innumerevoli altre specie. Esattamente. E è un messaggio particolarmente rilevante nel campo dell'istruzione, dove abbiamo la responsabilità di preparare i giovani a un futuro che sarà plasmato da queste potenti tecnologie. Quindi non si tratta solo di insegnare loro a programmare o a usare gli ultimi gadget, ma di instillare in loro un senso di responsabilità etica, una profonda comprensione dell'interconnessione dei sistemi e l'impegno a utilizzare la tecnologia per il bene dell'umanità e del pianeta. Esattamente. E questo richiede un cambiamento fondamentale nei nostri paradigmi educativi. Dobbiamo allontanarci dai modelli tradizionali che enfatizzano il successo individuale e la competizione e orientarci verso approcci più collaborativi e comunitari che favoriscano un senso di responsabilità condivisa per il benessere di tutti. Quindi si tratta di ripensare l'istruzione non solo come un mezzo per il successo individuale, ma come una forza per la trasformazione sociale e ambientale. Esattamente. Ora, esploriamo un altro aspetto chiave del lavoro di Guastavigna, la sua critica a quello che chiama il mito digitale. Ok, il mito digitale suona intrigante. Spiegacelo. In sostanza, Guastavigna sostiene che il termine digitale sia diventato una parola d'ordine priva di significato, una sorta di stratagemma di marketing che oscura le importanti distinzioni tra diversi tipi di tecnologia. È come mettere insieme tutto da una calcolatrice a energia solare a un sistema di riconoscimento facciale, sotto il termine generico digitale. Certo, entrambi utilizzano la tecnologia digitale, ma il loro impatto e le loro implicazioni sono profondamente diversi. Esattamente. E Guastavigna è preoccupato che questo uso indiscriminato del termine digitale stia portando a una sorta di determinismo tecnologico, la convinzione che la tecnologia sia una forza ineluttabile che plasma la società, piuttosto che uno strumento che possiamo scegliere consapevolmente di usare o rifiutare. Quindi si tratta di respingere quella narrativa dell'ineluttabilità, quella sensazione di essere impotenti di fronte a queste forze tecnologiche. Si tratta di rivendicare la nostra capacità di agire, la nostra capacità di fare scelte consapevoli sul tipo di futuro digitale che vogliamo creare. Esattamente. E questo ci richiede di essere molto più specifici e sfumati nel nostro linguaggio, di distinguere tra diversi tipi di tecnologie digitali, di comprenderne le diverse potenzialità e i limiti e di valutare criticamente il loro impatto sulle nostre vite e sulle nostre comunità. Quindi si tratta di andare oltre la dicotomia digitale buono o digitale cattivo e di impegnarsi in conversazioni più sfumate e critiche sul ruolo di tecnologie specifiche in contesti specifici. Esattamente. Qui il lavoro di Guastavigna offre un valido quadro di analisi. Ci incoraggia a distinguere tra tecnologie digitali estrattive e conviviali, a comprenderne i diversi valori e le diverse priorità, e a fare scelte consapevoli su quali tecnologie vogliamo abbracciare e quali vogliamo resistere. Quindi si tratta di prendere il controllo della narrativa, di non lasciare che le aziende tecnologiche definiscano cosa significa digitale per noi. Esattamente. Ora, approfondiamo un altro tema chiave che attraversa il lavoro di Guastavigna. La sua attenzione sull'importanza di sviluppare la competenza IA sia negli studenti che negli insegnanti. Ok, competenza IA sembra un'abilità cruciale per navigare in questo nuovo mondo. Spiegacelo. Cosa intende esattamente Guastavigna con questo termine? In sostanza sta parlando di un insieme di conoscenze, abilità e disposizioni che consentono agli individui di comprendere, valutare e interagire con le tecnologie di IA in modo critico, etico e informato. Quindi non si tratta solo di sapere come usare l'ultima app basata sull'IA o di scrivere un prompt intelligente per ChatGPT, ma di avere una comprensione più profonda di come funzionano queste tecnologie, quali sono i loro limiti e quale potrebbe essere il loro potenziale impatto sulla società. Esattamente. Immagina un futuro in cui studenti e insegnanti possano approcciarsi all'IA non con cieca fiducia o paura, ma con un senso di consapevolezza. Avrebbero la capacità di fare le domande giuste, di discernere i fatti dalla finzione e di fare scelte consapevoli su come vogliono interagire con queste tecnologie. Quindi, invece di essere consumatori passivi dell'IA, diventano partecipanti attivi, persino plasmatori della sua evoluzione. Esattamente. E Guastavigna sottolinea che questa competenza IA dovrebbe comprendere sia dimensioni tecniche che etiche. Ok, analizziamo questo aspetto. Cosa intende per dimensioni tecniche etiche della competenza IA? Sul versante tecnico parla di sviluppare una comprensione di base di come funzionano sistemi di IA, su quali dati sono addestrati, come vengono creati gli algoritmi e come questi aspetti tecnici possono influenzare gli output e il comportamento dell'IA. Quindi è come avere una conoscenza di base di come funziona il motore di un'auto. Non c'è bisogno di essere un meccanico per guidare un'auto, ma è utile sapere un po' cosa succede sotto il cofano, soprattutto se qualcosa va storto. Esattamente. E sul versante etico Guastavigna sottolinea l'importanza di sviluppare una consapevolezza critica dei valori e dei pregiudizi insiti nei sistemi di IA, del potenziale impatto di queste tecnologie sulla società e delle considerazioni etiche che dovrebbero guidare le nostre interazioni con l'IA. Quindi è come conoscere le regole della strada, non solo per la propria sicurezza, ma anche per la sicurezza degli altri. Si tratta di riconoscere che la tecnologia non è neutrale, che è plasmata dalle scelte e dai valori umani e che abbiamo la responsabilità di usarla in modo etico e giusto. Esattamente. E Guastavigna sostiene che lo sviluppo di questa competenza IA sia fondamentale sia per gli studenti che per gli insegnanti se vogliamo creare un futuro in cui l'IA venga utilizzata per migliorare la fioritura umana piuttosto che per esacerbare le disuguaglianze esistenti o erodere la nostra autonomia. Si tratta di dare alle persone gli strumenti per essere gestori consapevoli e responsabili di queste potenti tecnologie. Esattamente. Ora cambiamo marcia ed esploriamo un altro aspetto intrigante della critica di Guastavigna, la sua distinzione tra lavoro e mestiere quando si parla di scrittura nell'era digitale. Ok, lavoro contro mestiere, sembra che si stia preparando un dibattito filosofico. Raccontaci di più. Guastavigna sostiene che l'ascesa degli strumenti di scrittura basati sull'IA stia confondendo i confini tra la scrittura come attività orientata al compito guidata da scadenze ed esigenze di mercato e la scrittura come mestiere creativo ed espressivo, un mezzo di esplorazione personale e intellettuale. Quindi è come la differenza tra sfornare testi per un'agenzia pubblicitaria e scrivere una poesia o un saggio personale. Uno riguarda il rispetto di requisiti esterni, altro l'espressione di qualcosa di più profondo e personale. Esattamente. E Guastavigna è preoccupato che la crescente dipendenza dagli strumenti di scrittura basati sull'IA possa portare a una svalutazione del mestiere della scrittura, a una riduzione di questa attività complessa e sfumata, a un mero insieme di abilità tecniche o algoritmi. È come usare un kit di pittura a numeri per creare arte. Certo, potresti finire con un'imitazione passabile di un dipinto, ma non ti stai davvero impegnando nel processo creativo, nell'esplorazione delle idee, nella lotta per esprimere qualcosa di unico e significativo. Un'analogia perfetta. E Guastavigna teme che questa eccessiva dipendenza dagli strumenti di scrittura basati sull'IA possa portare a una sorta di pigrizia intellettuale, a un declino del pensiero critico e della creatività e a un'omogeneizzazione degli stili di scrittura. Quindi non si tratta di rifiutare completamente questi strumenti, ma di usarli in modo da preservare e migliorare il mestiere della scrittura. Esattamente. Vede questi strumenti come potenzialmente preziosi per determinati compiti come il brainstorming di idee, la generazione di schemi o la correzione di bozze per errori di grammatica e ortografia. È come avere un assistente digitale che aiuta con gli aspetti più noiosi della scrittura, liberando tempo ed energie per gli elementi più creativi ed espressivi. Esattamente. Ma Guastavigna sottolinea l'importanza di mantenere l'azione e il giudizio umano nel processo di scrittura. Sostiene che lo scrittore dovrebbe essere sempre al comando, facendo scelte consapevoli su come usare questi strumenti e assicurandosi che il prodotto finale rifletta la sua voce e la sua prospettiva uniche. Quindi si tratta di usare l'IA per aumentare la creatività umana, non per sostituirla. Esattamente. Ora cambiamo marcia di nuovo e esploriamo un altro concetto intrigante introdotto da Guastavigna, l'idea del narcisismo digitale. Narcisismo digitale. Sembra un po' un ossimoro, come si può essere narcisisti in uno spazio digitale. Beh, Guastavigna sostiene che l'attuale panorama digitale, in particolare le piattaforme di social media, stia alimentando una sorta di autoassorbimento, una preoccupazione per l'immagine personale e la convalida online. Vede questo narcisismo digitale come un sintomo di un più ampio cambiamento culturale verso l'individualismo e il consumismo. È come quegli influencer di Instagram che curano costantemente la loro persona online perfetta alla ricerca di like e follower come misura della loro autostima. Esattamente. E Guastavigna sostiene che questo narcisismo digitale possa essere particolarmente problematico nel campo dell'istruzione, dove l'attenzione dovrebbe essere rivolta alla promozione della curiosità intellettuale, del pensiero critico e del senso di responsabilità condivisa per il benessere degli altri. Quindi si tratta di spostare l'attenzione dall'autopromozione all'impegno nella comunità, dal successo individuale all'apprendimento collettivo. Esattamente. E sostiene che dobbiamo essere consapevoli dei modi in cui le tecnologie digitali possono essere utilizzate per rafforzare o contrastare queste tendenze narcisistiche. Ci incoraggia ad abbracciare gli strumenti digitali che promuovono la collaborazione, l'empatia e un senso di scopo condiviso. Quindi si tratta di usare la tecnologia per connettersi con gli altri in modo significativo, per costruire ponti anziché muri, per creare un mondo digitale più inclusivo e compassionevole. Esattamente. Ora, esploriamo un altro aspetto affascinante del lavoro di Guastavigna, la sua analisi del mercato del lavoro in evoluzione nell'era dell'IA. Ok, il mercato del lavoro, un argomento sempre caldo. Come vede Guastavigna l'impatto dell'IA sul mondo del lavoro? Beh, sostiene che l'IA sta automatizzando molti compiti che in precedenza venivano svolti dagli esseri umani, portando a una sostituzione dei lavoratori in determinati settori. Questa è la classica paura che i robot ci rubino il lavoro, giusto? Esattamente. Ma l'analisi di Guastavigna va più in profondità. Sostiene che l'IA non si limita a sostituire i posti di lavoro, ma ne crea anche di nuovi. Quindi non si tratta solo di una storia di posti di lavoro persi, ma anche di trasformazione del lavoro. Esattamente. indica i campi emergenti come la scienza dei dati, lo sviluppo dell'IA e l'etica dell'IA come aree in cui si stanno creando nuovi posti di lavoro. Quindi si tratta di adattarsi a questo panorama in continua evoluzione, acquisire nuove competenze ed essere pronti ad abbracciare nuove opportunità. Esattamente. E Guastavigna sottolinea l'importanza di sviluppare quello che chiama capitale umano, quelle qualità unicamente umane, che sono difficili da automatizzare come la creatività. Il pensiero critico, la risoluzione di problemi complessi, l'intelligenza emotiva e la capacità di costruire relazioni significative. Quindi si tratta di concentrarsi su quelle competenze che ci rendono unici come esseri umani, quelle cose che i robot non possono fare ancora. Esattamente. E sostiene che l'istruzione debba svolgere un ruolo cruciale nel preparare i giovani a questo mondo del lavoro in continua evoluzione. Dobbiamo andare oltre modelli tradizionali che enfatizzano l'apprendimento meccanico e i test standardizzati e concentrarci sullo sviluppo di quelle capacità umane essenziali che saranno molto richieste in un'economia guidata dall'IA. Quindi si tratta di reimmaginare l'istruzione non solo come un mezzo per ottenere un lavoro, ma come un processo di coltivazione del potenziale umano, di preparazione dei giovani a essere adattabili, creativi e resilienti in un mondo in continuo cambiamento. Esattamente. Ora cambiamo marcia di nuovo e approfondiamo un altro aspetto intrigante del lavoro di Guastavigna. La sua critica a quello che chiama professionalità critica nel campo dell'istruzione. Professionalità critica sembra un po' un ossimoro. Come si può essere un professionista e acritico allo stesso tempo? Beh, Guastavigna sostiene che nell'istruzione ci sia la tendenza da parte degli insegnanti ad accettare lo status quo, a seguire le pratiche e le procedure consolidate senza mettere in discussione la loro efficacia o i loro presupposti di base. È come fare le cose in modo meccanico, fare le cose in un certo modo, perché si è sempre fatto così, senza pensare davvero se potrebbe esserci un modo migliore. Esattamente. E Guastavigna sostiene che questa professionalità critica possa essere particolarmente problematica nell'era dell'IA, dove siamo costantemente bombardati da nuove tecnologie e approcci pedagogici. Quindi si tratta di essere più critici, più selettivi, più disposti a mettere in discussione lo status quo e a sperimentare nuovi approcci. Esattamente. Incoraggia gli insegnanti ad adottare una mentalità più orientata alla ricerca, a valutare costantemente le proprie pratiche, a rimanere al passo con i nuovi sviluppi nel campo ed essere disposti ad abbracciare il cambiamento quando è giustificato. Quindi si tratta di essere studenti a vita, non solo insegnanti di contenuti, ma anche studenti del nostro stesso mestiere. Esattamente. E Guastavigna sostiene che questa mentalità critica sia essenziale per navigare nel complesso e rapido panorama dell'IA nell'istruzione. Incoraggia gli insegnanti a considerare gli strumenti di IA non come soluzioni magiche, ma come opportunità di indagine, sperimentazione e riflessione. Quindi si tratta di usare l'IA per migliorare la nostra pratica professionale, non per dettarla. Esattamente. Ora, cambiamo marcia per una volta ed esploriamo un altro tema chiave che attraversa il lavoro di Guastavigna, la sua enfasi sull'importanza della connessione umana e delle relazioni nell'era digitale. Ok, la connessione umana nell'era digitale sembra un po' un paradosso. Queste tecnologie non dovrebbero isolarci e allontanarci sempre di più. È certamente una preoccupazione comune. Ma Guastavigna sostiene che le tecnologie digitali possono essere utilizzate anche per promuovere la connessione, l'empatia e la comunità. Quindi non si tratta di rifiutare completamente la tecnologia, ma di usarla in modo da rafforzare i nostri legami con gli altri. Esattamente. Ci incoraggia a usare gli strumenti digitali per entrare in contatto con persone che condividono i nostri interessi, per impegnarci in conversazioni significative, per collaborare progetti e per costruire comunità di supporto. È come usare i social media per entrare in contatto con persone che condividono la tua passione per il birdwatching o per unirti a un club del libro online. Esattamente. E Guastavigna sottolinea l'importanza di bilanciare le nostre interazioni online con le relazioni faccia a faccia. Sostiene che dobbiamo essere consapevoli dei modi in cui la tecnologia può essere utilizzata per migliorare o peggiorare il nostro senso di connessione e benessere. Quindi si tratta di trovare il giusto equilibrio dove la tecnologia completi le nostre relazioni nel mondo reale piuttosto che sostituirle. Esattamente. E penso che questo messaggio sia particolarmente rilevante nel campo dell'istruzione, dove le relazioni sono al centro del processo di apprendimento. Giusto. Gli insegnanti hanno sempre saputo che l'apprendimento è un processo sociale ed emotivo, non solo intellettuale. Impariamo meglio quando ci sentiamo connessi agli altri, quando ci sentiamo sostenuti e incoraggiati. E Guastavigna ci ricorda che anche nell'era digitale queste connessioni umane rimangono essenziali. Incoraggia gli educatori a utilizzare la tecnologia in modi che favoriscano la collaborazione, l'empatia e il senso di comunità in classe. Quindi si tratta di usare la tecnologia per costruire ponti piuttosto che muri, per creare un ambiente di apprendimento in cui gli studenti si sentano connessi tra loro e con i loro insegnanti. Esattamente. E con questo direi che si conclude la nostra immersione nel pensiero di Marco Guastavigna. Abbiamo esplorato la sua critica all'integrazione acritica dell'IA nell'educazione, toccando temi come il tecnofeudalesimo, le piste marketing e il mito digitale. Ci siamo anche confrontati con le sue proposte alternative, come le tecnologie conviviali, l'umanesimo digitale e la necessità di una competenza IA critica e consapevole. Speriamo che questa esplorazione vi abbia fornito spunti di riflessione e vi abbia incoraggiato a porvi domande sul ruolo della tecnologia nella scuola e nella società in generale. Prima di salutarvi, vi lasciamo con una provocazione. Guastavigna ci invita a chiederci non solo se la tecnologia debba entrare nella scuola, ma quale tipo di tecnologia vogliamo e soprattutto quali valori vogliamo che essa incarni. Grazie per averci seguito in questo viaggio intellettuale. Continua ETA a esplorare, a discutere, a mettere in discussione e a immaginare il futuro dell'educazione in un mondo sempre più tecnologico. Alla prossima, da The Deep Dive.